cammino di Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Dai, dai, dai, dai, dai, chi è un po'. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino, che sono io. Oggi già. Hai visto, dall'altra parte fanno tutte cose veloci, invece qui si parla lento, violento, quello vero. Quello vero. Dovevo andare in palestra, ma non ho resistito al tuo cammino. La sto facendo a casa. Ginnastica mentale. Con le tue melodie è molto più bello e appassionante. Grazie. Francesca. Non sono un uomo diverso, sono un po' perso, ma questo è il mio universo. Se non vuoi giorni grigi, scrivi a Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino è a vostra disposizione. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. È il cammino di Gigi D'Agostino. Ciao, sono Gigi D'Agostino, tamarro bizzarro. Suona la testa. Mi vibra il pavimento. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. È lento. Violento. A volte è incazzato. Ma mai meschino, ti puoi fidare. È Gigi musicale, mentale, musicale, mentale, Gigi D'Agostino, un DJ con le palle. Su M2O, frequenza, benevolenza, M2O. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino, mica una cosa a caso, Gigi D'Agostino, dai un po'. Questo programma musical mental, olé, me gusta mucho macho, que cacho, olé, pom, pom, pom, pom, pom.

Per me, amore vuol dire aver incontrato te. Forse può capirlo. Per me, amore vuol dire aver incontrato te. Voglio difendermi da tutto questo. Tutto questo. Tutto questo. Tutto questo. Mi lascerò travolgere anche dalla sensazione che mi devasterà il giorno che tu te ne andrai. Riesce ad amare solo chi non vuole difendersi dall'amore. Per me, amore, vuol dire aver incontrato te. Gigi D'Agostino. Un piccolo paese fuori dal mondo. Da Solaro, Milano. Salutami il mio grande amore Carlo. Ciao. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. La dignità dell'artista sta nel suo dover tenere vivo il senso di meraviglia nel mondo. Gilbert Keith Chesterton. We'll be right back. Benvenuti nel nostro giardino. Qui c'è la musica di Gigi D'Agostino. All'autogrill del Turchino ho incontrato Gigi D'Agostino. Ma era per fare la rima. Matteo da Acqui. Forza, forza, con queste mani, dai, dai, fatemi vedere, fatemi vedere, fatemi vedere. Vivo se eseguo un programma. Voglio che il gioco mi faccia da mamma. Perplessità. Mando la pubblicità. Ora pota, Nino. Signore e signori, Gigi D'Agostino. Sono Gigi D'Agostino. Sì, mi rendo conto. Abbiamo effettuato il contatto. Che vuol dire? Mi sono un po' scassato la noce perché ho ancora problemi alla voce. Però questo è che dobbiamo fare, prima o poi passerà. Dialoghi tipici dell'ascensore. Buongiorno, tornato il freddo, eh? L'anno scorso faceva leggermente più freddo, quest'anno si sta già un po' meglio.

Family, vorrei dedicare la canzone Cambio casa alla mia ragazza Lavi. Ti amo. Un saluto a tutto il forum. Teo. sintonizzato su M2O. Non è che stai ascoltando una radio a capocchia. Tissami, andiamo a tissami. Tissami, andiamo a tissami. Tissami, andiamo a tissami. Tissami. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Non ho ancora capito neanch'io che cos'è, però mi piace e tutti i giorni lo ascolto. Cammino di Gigi D'Agostino. Qualcosa fa. Dormire bene per migliorare anche l'amore. Dormire bene è un tocca sana per la coppia e permette anche di migliorare il rapporto con se stessi e gli altri. Chi riposa male, spiega Silvio Presta, psichiatra a Pisa, può soffrire di calo della libido o libido, quella lì, disturbi della memoria, alterazioni dell'umore, del ciclo mestruale e dell'appetito. E la scienza recente conferma, chi dorme poco ingrassa, no, com'è, non so leggere. Chi dorme poco ingrassa più facilmente. Non poteva scrivere chi dorme ingrassa poco. Dorme poco ingrassa più facilmente. La mancanza di sonno si associa infatti a un calo di leptina, l'ormone che regola il senso di sazietà, e a un innalzamento di grelina, che controlla il senso della fame, con aumento del desiderio del cibo. Per risolvere il problema è bene pensare al come dormire più che al quanto. Un ambiente silenzioso, con la giusta umidità, favorisce il sonno. Lo diceva pure il nonno. No, così. Era per fare la rima.

Ciao Gigi, ti prego, fai capire alla mia ragazza Mary quanto la amo e quanto sto bene con lei. Ma fallo con una canzone speciale. Love DJ. Signore e signori, Gigi D'Agostino. Sentiamo tra poco, rimanete lì o, oppure anche un po' più in là. Ciao Gigi, vorrei solo ringraziarti di cuore perché mi hai cambiato la vita. Sei un grande poeta contemporaneo. La tua non è musica, ma poesia. Alessio da Torrice. Un viaggio incontaminato. Un sentiero innamorato. La semplicità di un bambino. Il cammino di Gigi D'Agostino. cammino di Gigi D'Agostino. Ogni giorno alle 18 su M2O. Vorrei dedicare un giorno credi a gloria della prima I dello scientifico di Frosinone, Valentino. Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero. Credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e cominciare da zero. Gigi, sono Daniela da Torino. Salutami Carlo e digli che lo amo ancora. Spettacolo, fratello. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Sono un ragazzo di Sanremo. È un mese che lei mi ha lasciato per un altro. E io per superare questa delusione. Non ce l'avrei mai fatta senza la tua musica, Gigi. Danilo. Un giorno credo di essere giusto e di essere un grande uomo. E un altro ti svegli e devi cominciare da zero. D'Agostino, vi abbraccio forte. Ci sentiamo domani. Grazie.